13 sino a non mi ricordo nemmeno più, boh, insomma li sentivo tutti. Infatti io la domenica mi puntavo la parabola e vedevo anche partite di calcio straniere, però li vedevo gratis. E 13-19, in pratica ho subito dell'altro, come diavolo si chiamava, quello tedesco, dove si vedeva anche fin porno addirittura, mandano in chiaro. Ciao a tutti, io partivo dal canale 8 di Astra, tutti quanti quelli, li prendevo tutti quanti con la parabola, e la parabola mia era grande, da un metro, non era quella da 80 centimetri, era quella da un metro. Ma vedevo roba di 4.000 canali, una cosa del genere, in tutto. Per cui, poi alla fine mi si era bruciato il motorino, allora l'ho tolto e basta. Sì, da un metro è grande, cazzo. Sì, è anche pericolosa. Io ho pensato alla gentiera, non so quanto è durata, 3 giorni è durata, quando ci ha richiamato il cliente ci ho trovato la parabola a 200 metri di distanza dalla casa, e l'ha pensata, cosa l'ha pensata, 20 giorni l'ha pensata, è arrivato questo vento dalla gentiera, boom, ha pigliato, si è bucato, parabola e tutto, era in vetronese, era lunga, 1,20 m, era per canale, se non mi ricordo male era per canale, o la RAI o canale 5, adesso non mi ricordo, allora si usava l'Eco Star come ricevitore analogico e un primo vento, boh, ci ha portato via tutto, infatti era piegata, gli ho detto a Giorgio, ho detto lascia perdere, ho detto non ne pensare nemmeno, ho detto che qua, se no ho detto ci scendi a male, ci scendi a recuperare l'antenna. Ok, no, come l'ha piazzata la mia, no, non succedeva niente, perché l'ho tenuta anni, l'ho tenuta, per cui penso un po' il palo, ragazzi, addirittura ha affogato dentro il calcestruzzo quando avevo fatto il gettito della casa, tutto nel cordolo della casa, con il calcestruzzo, e c'era un palo dentro con tutte le zanche ben messe ed era attaccato lì, oh, non si poteva muovere, no, la torre era fatta proprio in maniera spettacolare, solo che era pesante, quello è vero, però la notte magari quando soffiava molto il vento già si sentiva il vento che fischiava. E io non lo so, non dirà a me. Avanti Marco. Sono rientrato, purtroppo, qua mancano all'appello 2 basi magnetiche, vabbè, una è macchina, lo so, l'altra, doveva essere in casa, non c'è, ho trovato l'antenne, ma le basi magnetiche, se no mi tocca andare in macchina a prenderla. Pazienza, però una doveva essere in casa e non c'è. Macello qua, non la gestisco più tutta sta robaccia. Quando viene il carabiniere lì a casa tua, c'è il comitato a lamparsi il tutto, ma te ne accorgi tu? Ti conviene perseguitarla dietro, cazzo. Davvero mi? Magari ha seguito a ruota l'accordatore MFG HF. Sì, non penso, spero che non te l'abbia fatto una cosa del genere, devo già rifatto l'affare. Vabbè, faccio 10 minuti di bianco, vado un attimino allo spin, devo prendere la roba. Tempo 5 minuti, se non mi c'è un accidente in strada, perché adesso vedo un pochettino male a salire, ragazzi, a piedi, ragazzi. Non sono più abituato. Va bene, 5 minuti e poi sto entrando, Marco. Se siete qui già vi chiamo, non c'è problema. Sì, già. E quindi Giulio, niente da fare. Vabbè, adesso Antonello va dello spin, può darsi pure che faccia un salto in macchina, no, per capire se per sbaglio ho lasciato 2 basi magnetiche, perché ci sono 2 antenne in macchina. Non capisco perché, cioè erano da alternare su un'unica base, ma potrei avere anche lasciato anche l'altra base in macchina. E una almeno a casa la voglio, per fare il test di queste fesserie. Ok Marco, vabbè, dai. Già abbiamo tempo per fare quando vuoi, abbiamo tanto tempo a disposizione e le prove le possiamo fare quando vogliamo, non c'è problema. Sì, è così. E vabbè, ma sai cos'è Marco, quando abbiamo tante cose a gestirle tutte non è che è tanto semplice, anche perché tante volte uno le cose le conserva e non si ricorda dove le ha messe, perché magari nel frattempo le hai spostate in un'altra parte senza rendertene conto. Ed è per quello che alle volte vai a cercare una cosa e perdi la testa per trovarla. È vero, magari ne trovo altre 10.000 che ho cercato altre volte, che non mi servivano, le trovo in quel momento. Appunto, no, tante volte è bello questo, no? Trovi delle cose che magari hai cercato prima, in passato, e non la trovavi mai. E nel momento che stavi cercando magari quest'altra cosa, ti è venuto fuori quello che stavi cercando magari qualche ora prima o qualche giorno prima. Ma pertanto poi va a finire così, siccome l'attenzione è focalizzata su quell'oggetto del momento, le altre, nonostante le trovi, le lascio dove sono e me ne ridimentico. Vabbè. Sì, per capire se era proprio questa antenna Lazzarona, eccetera. Posso capire un po' sorda in UHF un po', ma se non intendi nulla, male. Appunto, perché a me mi sembra anche strano, come vedi, a me mi sente Antonello, e Antonello è molto più lontano da dove sei tu, eppure mi sente lo stesso, cosa vuoi che ti dica? Mi sente Benettino, già mi ha sentito stamattina, e tu non riesci a sentirmi, strano, alle volte magari c'è un banco che non riesco a passare, perché questa qui è una frequenza un pochino strana, un pochino bastarda, la definisco io. Sì, ecco, altro che. I radiatori, mi ricordo che all'inizio quando iniziavano a usarle, quando era nuova, diciamo, come banda, la consideravano critica. Addirittura raccomandavano di non far fare ai cavi curve troppo strette, insomma, roba che leggevo su voci, quell'elettronico simile, era considerata critica come frequenza, dice le saldature devono essere perfette, dei cavi, delle eventuali spezzoni e un sacco di cose. Sì, basta uno nulla, proprio una cosa da niente, una minima cosa, una minima fesseria che non riesci a ottenere il risultato positivo, hai sempre qualche problema, purtroppo è così, e cosa ci vuoi fare? Io ripeto, a me serve per ricevere, ma se non riceve una mazza in UHF, no, non va più bene. Non posso provare nemmeno col ponte Cesar, ti ricordi? Poi era diventato un manicomio di portanti, rutti, pernacchie, bestemmia, e l'hanno chiuso. Quando sì, purtroppo. Vabbè, torniamo ai discorsi che abbiamo fatto centinaia di volte. Lo so, purtroppo la maleducazione c'è stata e ci sarà sempre, anche se oggi in minima parte magari rispetto a prima, per il motivo che ci sono meno pretendenti alla radio, e allora è per quello che si è pulita un pochino, dai, diciamo che si è un pochino risciacquata la bocca la gente. Un po', ma addirittura mi ricordo che sul ponte Cesar mettevano ore e ore di portante anche all'ingresso del ponte per non farlo usare da nessuno. Sai cosa vuol dire ore e ore di portante? Quello era un microfono da tavolo col PTT bloccato, quindi erano radiatori che per fare danno altri radiatori. Poi scemo, con ore di portante l'avranno tracciato ben bene, tracciato, cercato in macchina la portante, tracciata con direttive, eccetera. Vabbè, che a certi non gliene frega più niente, ci sono certi radiatori anziani come quelli che andavano in 45 metri, sapevano che li avrebbero beccati, ma non gliene fregava niente, boh. Sì, ma si sa, è così, ma non smetteranno mai. Queste persone esisteranno sempre. Tu puoi fare mille appelli, mille parole, puoi sprecare per cercare di far diventare educati con certe persone, ma non c'è rimedio, guarda. Tanto che chi è nato maleducato rimane, non è che poi non gliene frega niente. Magari può avere un momento di pausa perché se ne rende conto o perché non ha voglia di fare lo stupido, però poi ci ritenta. È un po' come il delinquente, è un po' come il ladro. Uno dopo viene trovato, si fa i suoi giorni di carcere o i suoi mesi o i suoi anni, poi quando esce di nuovo rimane buono per un periodo, ma poi ci ritenta di nuovo e ci ricade. E io, oh, sono meccanismi strani. Vabbè, adesso valuto, da. Comunque almeno per sapere se è stata persa cosa o una capatina in macchina la faccio. Se c'è roba da portare su, la porto su. Almeno una deve stare qua. Vabbè, quello sì. Se vuoi andare, vai, Marco, non c'è problema, dai. Poi eventualmente, se hai ancora voglia, se sono all'ascolto, chiami e riprendiamo. Sì, almeno capire. Una volta capito che non c'è trippa per gatti, pazienza. Ok, vai, fate una passeggiatina, copriti perché c'è un po' di freschetto. Stasera io poc'altro sono uscito in giornata, ma devo dire che c'è un bel po' di freschetto, stasera si fa sentire. Ehi, vabbè, arrivo subito, dai. Poi Pomponio tornerà dopo un bel po' e vediamo se tiriamo le somme, dai. Va bene, a dopo allora, dai, sono qua. Una l'ho trovata, quella piccola che sapevo che c'era già, quella grande non che deve essere in qualche armadio maledetto. E allora controlla bene che la troverai, anche se è nascosta bene. Purtroppo è così, quando è nascosta bene è più difficile trovarla. E qui adesso farò a breve un'ultima prova con una vera antenna Diamond. E con questa base, se non va bene quella vuol dire che la zona, ok. Ok, ma adesso la stai mettendo a Diamond? Sto preparando il tutto, dovrò sostituire l'antenna e se la sto avvitando. Questa almeno è Diamond originale, mi pare Diamond originale ne ho solo una. E questa è alta un metro ed è 2x5 ottavi, là. Ok, alta un metro, qual è? La X630? No, veicolare. Aspetta che ti dico la sigla. Diamond NR770H, 770H, cioè quella che è la bobina a vista, non quelle bobine chiuse dalla plastica, è a vista. Ho capito, sì. Vabbè, io ho quella Diamond X30, che è quella lì, bisogna che dia una bella controllatina e dopo magari se è il caso la monto su un palo e così la tengo sempre a disposizione. Ma anche se devo essere sincero, non è che mi interessa più tanto, mi si è considerato che col gommino riesco a fare qualche passo in più, chiamiamolo così, passo in più. Avanti Brecco. Buonasera. Ciao Antonio. Buonasera. Dopo tanto tu, come mai? È sempre al lavoro? Sono contento se stai lavorando. Sempre a parlare, sempre. Ho sentito anche Marco. Ciao Antonio Marco, buonasera, ben sentito. Sì. Sono contento per te, così almeno non hai più il problema del lavoro. Continua così e la vita va alla grande. Gabriele ha toccato con le macchinette. Cosa si è fatto Gabriele? Gioca con le macchinette. Tempo suo, lascialo giocare, che lui è piccolino e ha bisogno di giocare come tutti i bambini del resto. Meglio così, i bambini vivaci sono più belli, sempre più belli. Più vivaci sono quando sono piccolini e meglio è. È fissato, rimpiatemi. Ciao Anto. Ciao Marco, buonasera. Giulio, quando vuoi provare, io sono in ricezione lì, per ora. Solo ricezione facciamo, tanto se non arrivi in ricezione, niente, è la zona. Sempre 81? Sempre. E cosa è? In FPR? PMR. Vediamo un po', qua tutto touch, lo squalcio al minimo. Guarda, se mi dà la frequenza, provo io. Ma sei in antennino, Anto? Via. Allora no, la tua zona è troppo negativa, è troppo dietro la collina. Vediamo Giulio, quando è pronto, magari ha già chiamato e no, che non si intende nulla. Oh. Tu sei basso di radio, però ti sento basso. Come basso? Qua sto parlando piano, qua. Un po' meglio fa ora. Meglio. No, perché io ho il volume non alto, ce l'avevo regolato per Giulio. In confronto Giulio era molto più forte. Là. Vediamo, poi quando ha finito mi chiamerà, vediamo. C'era anche Pomponio, c'era doppio room nel pomeriggio. Pomponi è andato a Eurospin a comprare qualcosa, secondo me casse su casse di pizza. Ma va, non avevo dubbi. Non mi hai risposto, forse non mi senti. Oh, hai già parlato, qua c'è lo squalcio al minimo, niente. E allora non è questione di antenne, è proprio negativa la zona, negativo tutto. Conta che, te l'ho detto, ripetitore cellulare, poi vicino c'ha masse metalliche tipo l'antenna TV del terrazzino, poi quella maledetta scatola del gas di Medea che è metallica, niente da fare, dai. Allora diciamo che l'antenna non è proprio colpevole, è la zona mia. Sarà così Marco, prova a chiamare tu a vedere se ti sento almeno. Allora fammi approntare quello di prima, un attimino, riprendete voi. Va bene, d'accordo, vai tu. Ehi, ma guardi, sta facendo questo impianto che da stamattina l'ho usato, ma com'è? Questo impianto stai usando, quale impianto? Della mia antenna, va bene, sì. Sì che va bene, la radio no, però non è che sia molto forte. Rispetto al segnale la radio non è fortissima come ti ho sempre sentito. Guarda a vedere ora com'è. Adesso è migliorata la radio. Ok, così ora vai. Il segnale è buono, il segnale è forte, il segnale è a fondo scala. Adesso già è migliorata anche la radio, già va bene così. Che poi in primavera adesso si sale giù e si controlla se tutto a posto. Ok, va bene, meglio così. Stavo dicendo tu, comunque hai trovato il lavoro a Sassari, sì? O sei fuori di Sassari? A lavorare? No, a Sassari con le bombole. Ah, nelle bombole, io ho capito, sì, a tu. Va bene, il tuo vecchio lavoro, quello già lo conosci bene, grazie a Dio, è un lavoro che tu hai sempre fatto, per cui lo conosci benissimo. Buonasera. Buonasera a lei. Mi sentite? Forte e chiasso. Ok. Buonasera Giulio. Buonasera anche a te. Sì, stiamo facendo quattro chiacchiere. C'è anche Marco in questo canale che stiamo aspettando un attimino. Vediamo, riprendi, dai, fai girare tu magari per Marco. Ciao Marco, avanti. Ma chi è Luca? Sto usando il iPhone, era da un po' fermo. Niente, volevo sapere come stavo uscendo, un microfono normale. La modulazione è un po' diversa la timbrica, ma è dovuto al mic normale. Giulio, quando vuoi io sono pronto. Provo io, inizio io? Sì, prova Marco, dai, prova. È già acceso, è sintonizzato su quella frequenza, prova. Magari sbattere nel canale. Certo, il canale 11 devono essere quelli di continente. Catta, mi splatterano i canali, mi splatterano. Di uno, adesso è sull'11. Adesso arrivano talmente forte che io li sento. Con l'antenna intesa tutti. Quelli del canale 11 è una magogna. Ma chissà quanti vatti mettono questa gente. Tutta gente straniera, ragazzi, da bus. Ma lì non ne hanno limiti questa gente con la potenza, fanno certe modulate, ragazzi, perché si spaccano le orecchie da quanto sono forti. Non ti preoccupare che c'è nel burame, fidati. Ma sono troppo vicini questo canale, tante volte si mettono anche l'FM e disturbano perché è un canale di differenza. Quando tu incominci a mettere 1000-2000 watt già lo credo che ti spacca le orecchie. Non hanno limite sicuramente, niente da fare, dai. Ecco, questo qui deve essere Giovanni Piede di Piombo. Attento Giovanni, tu sì. Ti sento come stamattina, Giovanni, come stamattina ti sento. Non è migliorato niente, più o meno così. Magari ti sente meglio, ma Antonio che è più vicino anche. Antonio, ti mando Giovanni Piede di Piombo da Sorso. Sembra l'FM, sembra. Perché sta uscendo con l'antennino tipo bastone, capito? E non ha un'antenna performante per quello. Ha un'antenna che la fa buona, che ne ha fatto. Antenna buona? No, non ce l'ha l'antenna buona. Ha sul tetto un antennino, un'antenna tipo bastone, da un metro e dieci, una cosa del genere. E magari in una posizione un pochino bassa, anche a sorso, e allora arriva così basso. Va bene, comunque speriamo di sentirlo in tutti i passaggi, perché con questi splatter che ci sono da parte di questo canale 11 è vergognoso veramente. Caspita quanto arriva forte questo canale 11. Avanti, Luca, ci sei ancora? Sì, sono qua. Vabbè, la modulazione è normale, questo è il microfono normale dell'altro apparato. Vabbè, te senti che mi sentite? Stai uscendo bene, un po' baratosa è la modulazione, però è abbastanza buona, Luca, non c'è problema. non c'è, ho sentito che stavi lavorando fisso, Luca. Caspita, tu non immagini quanto sono contento quando io sento gli amici che trovano un posto di lavoro, soprattutto così, quando ce l'hanno fisso, guarda. Ehi, giù, non è... aspetta che... ok. Non è fisso, fisso, però ci sono già 4 mesi, dai, non c'è problema. Ehi, vabbè, piano piano poi magari sarà a tempo indeterminato, per cui va bene così. Interessante lavorare sempre. Sono contento anche per te, sia che per Antonio che per te, tranquillo e pacifico, perché oggi trovai lavoro, io me ne rendo conto, io vabbè ormai non devo lavorare più, ma per dirti, no, mi rendo molto conto cosa vuol dire uno a non avere lavoro, per carità, sono delle disgrazie, io li considero disgrazie, chi non ha lavoro non riesce a trovarlo, sono delle disgrazie per conto mio. Vediamo un po' se è rientrato Marco. Marco? Ehi, stavo provando a chiamare, ma niente da fare, dai. Prova tu, ma ho già capito l'antifona e la zona. È probabile che sia la zona. Cioè, io adesso in questo momento sto chiamando su quella frequenza, ma tu non mi senti, dunque siamo sempre da capo. Sì, sì, zero totale, ho sbloccato anche lo squelch, l'ho sbloccato e non arriva a segnare, nulla la va, vabbè, ho capito, adesso ritiro tutto, successo. Non fa fare niente, tanto va tutto male, vabbè, pazienza, vai Luca. No, io non lo sento nessuno, boh, qui c'è qualcuno, c'è. Il PMR. Ah, boh, qual è la, non mi ricordo manco la frequenza. 081 446 081. Non ho capito, questo PMR l'ho caricato, l'ho lasciato lì nel suo alloggio. Cazzo, me lo trovo sempre a scarico. Ah, scarico, io ho fatto la chiamata per te, il PMR, ma non se mi stai dicendo che ce l'hai scarico. Io adesso ho una portante senso adesso, chi è questo? Boh, forse Antonio ha provato. Oh, Antonio, tu eri? Sì, sono io, ho provato una prova. Aspetterò il ritorno di Pomponio, dai, è l'unico con cui posso capire se... se... Sì, Gerusio, ho fatto una prova. Qua è tutto morto e sepolto, non entra segnale qua. Ma vabbè, non mi dava 081, ma... Boh, ma è così, babao. No, Intec. Sarebbe il canale 7, tu metti il canale 7 PMR. Io ho messo 446 075. No, 081 deve essere. Marco, è rientrato di nuovo Giovanni? È rientrato quello discorso di stamattina? No, e chi lo copia? Io tra gli splatter del 12 che hanno un'emissione di 20 kHz di larghezza di banda, non lo copio. Quanto deve essere lo step? 12.50. No, potrebbe essere, ma di solito i canali sono comunque distanziati di 12.5, Vabbè, comunque 081.2 è la frequenza giusta. 446.081.25 infatti. Sì, la frequenza giusta è quella che hai detto. Non se ne capisce nulla, guarda, di questa robaccia. Ah, ma se l'hanno potuto, mi. No, 081 non lo dà, praticamente salta da 075 0875. No, Luca, e allora ti spiego, così è sì, a cavallo tra un canale PMR e l'altro. Sei proprio a cavallo, devi allora muovere lo step a 625. Hola, chico. Comunque, vi copiate, Anto, tra te e Giulio, vi copiate? Io lo sento a Giulio, ma lui non sente a me. E siamo sempre lì, là. Io Luca lo sentivo bene quando avevo l'antenna dalla parte della strada. Un giorno abbiamo fatto una prova e arrivava in modo eccellente. Vabbè, Luca è più vicino anche. È dietro la collina di Pruniceda, però è più vicino. Ciao. Forte chiasso! Adesso non vicino a casa mia, due passi. Oh, sto chiamando, Marco, mi senti? No. Ciao Cristian, basso basso, tolto lo squelch, però arrivi. Sì, sì, sì. Vedi, vedi la magagna. Come Giulio, mi copia ma io non sento nulla. Giulio, è così, è problemi di ricezione qua. È secondo il ripetitore cellulare, è troppo vicino. Arrivi bene Marco, eh. Antonio arriva da Frusciato, lo sento basso basso. Luca, mandami giù, mandami qua. Mandami giù Marco, vai. Scusa, scusa che io. Luca, to. Zero totale. Non arriva a segnare qua. Non è un problema tuo, è un problema mio di battimento. Ciao Cristian, mi senti? Una cosa è chiaro, tu mi senti? Marco, sei in opera, bello pieno qua, Cristian. Tu mi senti? Sì che ti sento qui, a Puglia. Va bene, si che spacco, dai, che è meglio qua. Non si poteva raccontare la pappa del cane. Cristian, io ti sento in opera, bello pieno, eh. Vabbè, sono attaccato, Cazzo, c'è una bomba, sì. Bella mossa, Guarda adesso. Guarda. Fai da 8 a 9, bello pieno. Cristian, dove sei? Campagna? Ok. Vabbè. Tutto bene, sì? Sì, sì, tutto bene. Adesso mi sto facendo a lavorare, a divertirmi, guarda. Vabbè, quello è importante, dai. Quello è importante. Facciamo venire avanti di nuovo Giovanni da Sorso, vediamo un po' se riusciamo in mezzo al QRM a capire qualcosina di quello che ci dice. Attento Giovanni. Ah, sei nella zona alta di Sorso. E a Cristian l'ha sentito che ti ha risposto. Ok. Per quello Giovanni, quando parli avvicinati il microfono alla bocca, che magari riusciamo a guadagnare qualche sillaba in più. Riusciamo. Avanti Marco. Io copio Cristian Bassino, ma Giovanni zero totale, come stamattina. Niente da fare. Vabbè, io aspetto il rientro del pomponio per fare due prove, poi tolgo tutto, anche la prolunga, non me ne frega. È tutto inutile qua, dai. Sono in un pozzo nero qua. Ok. Scommetto che la prolunga anche tutta quanta aggrovigliata, tutta quanta piegata, magari, tipo ciocche. Sai, quello è importante agli effetti della UHF. Marco. No, anzi, arriva bella dritta, tutto dritto, non ho avvolgimenti, non ho arricciamenti, nulla. E qua c'è qualche maledizione faraonica, non lo so, non c'è spiegazione Giulio. Ok, vabbè, magari prima o poi già riusciamo a trovare l'inghippo, dai. Perché non è possibile, perché mi ricordo che prima ci sentivamo, per cui adesso non è possibile. E cosa sarà successo? Boh, non lo so, vabbè. Avanti Luca, bella voce, bella potente e possente. Stavo spegnendo la pappa del cane. Tu casino. Quel portatilino non capito la carica, non l'ho mai usato. L'ho acceso, ma la batteria si carica da sola così, non ho detto usarlo. Io spegnete i baracchini, non è ora di modulare. Vuoi mangiare un pratino di mammo? Capito? Io spegnete i baracchini. No, ti faccio uscirci di fora. Sì, ciao Tia, stasera abbiamo una greffa di ragazzacci in questa frequenza, Tino. C'è un fraiuli che non sono altro. Tino, metti ordine, metti ordine. Allora, c'è un fraiuli, non siete altri. Buonasera. Ciao Ti. E vabbè, c'è Marco anche. Mi guarda che c'è un ragazzo da Sorso. Tu lo dovresti sentire molto bene. Un certo Giovanni da Sorso, Tino. Piede di piombo si faceva chiamare una volta a baracchino. Te lo mando avanti. Avanti Giovanni per Tino. ciao Giovanni, ben ascoltato, piedi di piombo, ma allora sei sceso giù in basso, ti hanno sceso, piacere comunque, Gianfranco, nonché Gianfranco la scimmia io, e Tino Gianfranco la scimmia mi chiamo. Capo. Vabbè, arrivo lì alle tue coordinate, sì. Vabbè, salutami a cosa? A Vannino, Vannino Ludusinco. Sì, salutami anche a Franco, che ci sentiamo spesso noi. Se ti sto rispondendo e ti stanno rispondendo anche gli amici da Sassari, sta funzionando. Va bene, dai, io sono entrato a salutarvi. Niente, dai, riprendete voi. Vai Antonio. Antonio, riprendi? O stai dando attenzione al bambino? Vabbè, deve essere una parata col bambino. Vai Marco. Ciao Tino, io mi stavo azzuffando con Capi. Qua non funziona niente oggi, dai. Scusate un attimino, mi devo assentare, io devo preparare la pappa al cane, dai. Ma me ne ascolto. Luca, 4G, cosa mi servono, Hola, 3 stelle mi servono. Che sta mettendo a portare? Hola, mi servizio, Siamo 3 stelle, ti. Sì, ma dico, sono buone? Sì, a 18 sono, ma sono buone, ma di 3 stelle, ti. Meglio, ho visto, va bene. K, mi sentite? Sì, con le orecchie. K, adesso già lo adivino l'idratato, con l'ala 48 sono, com'è? 9.30 a pieno. Dico, la popolazione è buona. Sì, Anto, va bene. Chissà da quando era che non lo usavo, era mesi e mesi fermo, era. Andare, va bene, io rimango con Rix, dai, ci sentiamo alle prossimine. Ciao a tutti, riprendi Giulio, ciao. Ok, ciao a te, ciao. Fate sentire di tanto in tanto noi siamo qua, così i cibi modelli siamo qua. Marco, tirate di ai questi cavi. Ragazzacci sono. No, aspetto Pomponi, l'ultima prova. Ciao zi. Mamma mia. Cappa. Come gli segnale da te che sei più lontano, Marco? Prova un po'. 1, 2, 3, prova. Qua alla 48 sono. 9 più 20. E la modulazione è migliore di quell'altra. È che prendo i colpi, se no mi lasciato questa. È una bestia, è buona, per radio. È che problema che piglio un po' di colpi. Sono messo in decisione, io non voglio comprare più nulla, sono messo in decisione di prendere il nuovo. Cioè non prende così i colpi, però mi va di bassa la gana. Dai, anche io, devo guidare. Ehi, guida, mi pare un po' più in macchina puro, che la gente rientra. Io c'ho già in macchina. C'ho l'appunto, c'ho io. C'ho già l'appunto. Io ce l'ho, la tua è verdolina. Ma te sei grigio. Guarda, un giorno ho fatto una distribuzione ieri, ho fatto, ho cambiato pompa, così c'è pompa dell'acqua, perché prendeva un po', distribuzione nuova, un treno. E si era spostato il canale e non me ne ero accorto. C'ho appunto un traboletto. Giulio. Anto, dimmi. Mi sono comprato una Fiat Punto. Cosa hai detto? La modulazione è troppo cupa tu. Non è che si capisce molto chiaro, Usa il baracchino grande, quello bello che hai, di lusso, quell'altro, il migliore in assoluto, che ha una modulazione spettacolare. Guarda cosa era adesso, meglio era. Adesso già ho capito qualcosa, ma se lo metti troppo forte, poi agganciato specialmente diventa troppo barattolosa e non capisco chiaramente quello che dici, capito? Guarda cosa era ora, com'è? Sì, è forte, è troppo, sempre troppo forte, è barattolosa la modulazione. Adesso già lo capisco, però non è quella modulazione che sono abituato a sentirti quando usi l'altro baracchino, non 48, l'altro baracchino, quello bello. Ah vabbè, l'accendo. Ho detto che mi sono comprato un appunto, mi sono comprato. Un appunto ti hai comprato? Hai fatto bene tu, capita. 2001. Però quando l'ho preso c'era 52.000 km. Del 2001? Vabbè, non vuol dire niente, vabbè, anche se ha un po' di anni, però può sempre andare bene. Anche la mia, la macchina, ragazzi, tra la mia 16 anni a giugno, e ti dirò, sai quanti chilometri ha? 43.880, tanto per dire una. Vabbè, poi c'è l'altra invece che ha 4 anni e mezzo, una cosa così, 5 anni dovrebbe fare a settembre-ottobre, quella ne ha roba di 50.000. Va bene questa modulazione, sì. Praticamente io l'ho presa a 52.000 km aperta quando l'ho comprata. Adesso ne ha 56.000. Se sono originali i chilometri, se non li hanno manomessi contro chilometri eccetera, già va bene, poi basta fargli manutenzione, già tira, già camminano sempre, non c'è problema. È interessante se tenere bene le macchine. No, è possibile che non sia nessuno perché non avrebbe passato la revisione, perché adesso ti controllano. Io quando ho portato a fare la moto in revisione, me li hanno controllati e dovevano essere quelli i chilometri, se no non passavo la revisione. Ho dovuto firmare anche un foglio per testare che la moto, cioè, perché la moto va quei chilometri, anche con la macchina è così, se no viene bocciata, capito? Sì. Vabbè, interessante che sei a posto, in ordine, non c'è problema. Almeno sei più tranquillo, la moto d'inverno non è che va molto bene. È bella la moto, però d'inverno non è che vada molto bene. Interessante avere una bella macchinetta, tranquillo e pacifico quando vuoi uscire, sia al coperto, non sei né sotto la pioggia, né sotto il freddo, il vento, eccetera, che è male varie. Vediamo Marco se ha ripreso. Marco? Sì, sono qua, sto ascoltando, dai. Cioè, ti aspetto Pomponi e poi levo tutto. La macchina io risparmio un po' perché me le riparo, me le faccio io le manutenzioni. Anche l'olio me lo cambio io, capito? Beh, certo, se sono cose che si sa fare, perché no? Certo, se uno se ne sa fare è tanto riguadagnato, no? La tieni bene, la tieni e dunque, poi se c'è una cosa che non sai, già ci sono i meccanici bravi che la aggiustano. Vediamo un po' all'amico Gianni da Sorso. Gianni! Sì, forse funziona meglio questa, sì. Sì, è leggermente più forte, sì. Dovrebbe andare meglio. Vediamo un po', perché il punto dolente è che non riesce a sentirti Marco. Vediamo se ti ha sentito adesso, Marco. Negativo. No, io lo sento. Ciao, sono Antonio da Sassari, Giovanni da Sorso, mi senti? Giovanni, ci sei? Forse sta facendo qualche cambiamento, perché io ho sentito un passaggio discreto, ho sentito con un segnale più alto e anche con una radio molto migliore rispetto a quella di prima. Forse sta facendo il passaggio dell'antenna o qualcosa del genere. Va bene, dai, abbi pazienza Marco, probabilmente riuscirai a sentirlo se riesci a sistemare l'antenna. No, io lo sento, non ho problema, lo sentivo anche prima, se non slateravano. No, stavo dicendo Marco, perché Marco non l'ha ancora sentito, Marco. Da stamattina, noi stamattina stavamo parlando, ma non riuscivo a sentirlo perché c'era intanto QRM, poi stava arrivando molto basso. Vediamo un po' se è sistemato. Giovanni, ancora non ho sistemato. Luca. Si mette la mano a GPE come quella che abbiamo noi, guarda che già pompa. Ok, vabbè, dai, riprendi Anto, che mi assento un attimo. Capo, già, quando non splatterava non lo sentivo bene, la verità, un amico da Sorso, no, non avevo problemi, sicuramente lui mi sento una bomba, mi sento. Lui, praticamente qua, lui ha segnale zero, c'è il QRM e non sento altro, capito? È proprio negativo per qua. Per esempio Franco di Sorso, vabbè, grazie, antenna sul tetto e arriva, dipende quanti watt usa, un po' bene, un po' meno bene, dipende. Ma Giovanni è zero. Zappa, mi stavo dicendo qualche cosa, abbatti Giovanni. Perché lui è qui dentro Sassari, capito? Io sono una Tedoccia, sono di Maderna. Giappa. Da ti sento. E qua se non sei forte, sei il 5. Però già da ti sento. Scappa. Avanti Marco. Ehi, hey, purtroppo qua ho rimesso lo squelch perché tanto arriva solo QRM. Luca, sei rientrato? Tutti uccelli di bosco oggi, oia, porca miseria, guarda. Giappa. Beh, ho sentito questo americano, have a good day, buona giornata, ci ha detto, praticamente. Ma sarà per lui una buona giornata. Cosa ha detto l'americano? Have a good day, ha detto. Dico, ti devo dire. Have a good day, ti ha detto, have a good day. Beh, Popponio. Beh, buonasera a tutti, sono rientrato. Ciao Antonello, praticamente non abbiamo calato piedi, ho provato a cambiare antenna, ho messo la migliore Diamond che ho, se non funziona con quella è la zona. Sì, ce la mettiamo sul palzetto e almeno sei tranquillo. Ho una staffetta sotto al palo della via 27, ti fai la calata, va a far culo, almeno c'è l'antenna, anzi c'è l'alta di antenna, mi sembra, non ho già bisogno di terrazzino, la piazziamo in quel palo lì, almeno la utilizzi. No, meglio Antonè, meglio. Ho la Diamond BC202, 1,15 m, 2x5 ottavi, quella è migliore. Provi, se vuoi provare a chiamare. Vabbè, facciamo la prova. Quando vuoi piazzarmelo, me lo dici, vengo e te lo installo. Salgo 2 minuti e nell'imparo e installo come si chiama l'antenna, poi facciamo la calata del cavo direttamente in casa tua. Almeno si è a posto. Se no mette davanti al razzino, ci dati il marron grassi. Ecco. Prova a parlare, Marco. Esatto, sì, Antonio. Bene, una cosa già lo sento. Sì. Aspetta un attimo che rispondo. Antonello arriva. Sì, parla, parla. Parla con uno, parla con uno. Sì, Giulio, comunque vedi, Antonello con questa antenna Diamond arriva, con l'altra non arrivava. Adesso attacco io, esito. Vai Antonio. Riprendete voi, provo a mettere il veicolarino. Ma ci funziona? Sì, c'è qua? Ma tu di qua fate scendere? Cristian, sei tu, siamo in PMR momentaneamente, stavamo facendo una prova perché qua non se ne capisce niente. E già torniamo subito. Ok, dai, intanto sono curioso, dai. Ma ho sbagliato tanto. Hola, hola, scusate, mi è squillato il telefono, c'è qualcuno? Ci sono ancora io. Oi, la matta di guardi, sei fortissimo. Adesso per volta sono ancora da Lomberto. 9.30 mi stai arrivando. Sei da Lomberto, vedi, la via del Pedro del Carmine. Oh, sì, secondo me ti perderò mai. Guardala sul tetto, non ti perderò mai. Se posso dire l'antenna perché magnifica sulla capota, non si vede che abbia delle più grandi. Ciao, ma mi senti giù lì? Io sento un po' dei chiari, un po' più qua fuori ormai c'è. Vabbè, magari tu. Un po'. Però va già viaggio. Cappa. Io, cioè, se tu gli ripassassero, tu mi sentirai sempre, non hai problemi. Perché io, cioè, da quando ho messo l'antenna su, io no. Non ho problemi a copiare nessuno. Oh, ma è proprio che la tua voce è un po' che cura, che è abbastanza grossa, capito? Non è fatto il microfono. Gappa, gappa. Tu sei a bomba qua, eh. Tua, due parti. Gappa. Sera, a me ne faccio qualche cosa al giorno, ma le faccio, dai. Dai, che avanti? Ciao, buonasera a tutti, sono Marco Aurelio da Caligari. Ui, ciao Marco, buonasera anche a te, dopo un po' ci siamo tutti sentiti. Sì, è vero. Stavo ascoltando qualche minuto, ma siete tutti in PMR o... Aspetta tu. No, sono parapisa io. No, il PMR non lo so, chi c'è il PMR? Boh. Cappa, dimmi o... Dimmi, c'è Marco da Canica, c'è. Ehi, ciao Marco da Canica, ma oggi molto freddo c'è? Ma io, la verità, non ho sentito molto freddo, eh. E che sono dei pinguini in giro? Ah, le pinguini, capri sono pochissimi, so. Ah, come hai visto, già si è fattute, no? Non si è bruciato. La pacca di taglia. Mettendo verbali. Oh. Non sa ne fa altro. Quindi la gente non ha di nato. Se lo fate a posto di lavoro, dai, ci sentiamo troppo, dai. Ehi, a capo, avanti Marco! No, volevo sentire... Ciao Marco, se mi senti? Gianni, dopo i whisky, ma mi sa che non lo sento in collegamento, vero? No, non c'è Marco, non c'è Gianni. Mi aveva proposto, aveva chiesto se potevo vendere di un'antenna, una Turbo, quelle 2001, quelle LEM, quella Sirio. Però l'ho messa nel gruppo, l'ultima che mi ha detto che la moneta 67, non mi ricordo. E quindi il gruppo mi ha detto che era troppo, quindi nel gruppo io c'ero. E volevo dirlo. Troppo. Oddio. Bisogna avere tanto cosa nuova, te lo dico già. Non l'ho mai sentito. Ecco una modulano. Sentirle, lo sai. Le avracche la trasmettono. Thank you.